Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro lo balloon, che ricorda che ci sono ancora alcuni giorni per poter visitare in sala borsa la mostra legata a Pinocchio, con le due versioni del burattino di Collodi, quella firma di Verdini, Rodari, e quella invece disegnata da Pinni Cioberti. E allora continuiamo ad approfondire, in particolare il secondo, artista toscano, pietra portante del Pioniere, e lo facciamo inizialmente con il dottor Roberto Sottile del Centro Studi d'Arte e Archivio Vini Cioberti stesso. Dopo lo stacchetto musicale, Morena Moretti porta al microfono proprio il dottor Roberto Sottile. Siamo con Roberto Sottile, che è direttore artistico del Centro Studi d'Arte Archivio Vini Cioberti. Allora, si è aperta da pochi giorni a Bologna una mostra dove per la prima volta in questa città potremo vedere esposte 60 litografie su Pinocchio dell'artista toscano Vini Cioberti. Roberto Sottile, come nascono queste litografie e che cosa ci raccontano anche del legame che aveva Vini Cioberti con il burattino di Collodi? Beh, bisogna dire innanzitutto che la ricerca di Vini Cioberti è una ricerca che fonde in maniera armoniosa non solo il fumetto ma anche la pittura, quindi in realtà parlare di Vini Cioberti come artista significa raccontare quello che è il suo percorso non solo pittorico ma anche fumettistico. Il rapporto con Pinocchio è un rapporto speciale, un rapporto davvero unico quello che a Vini Cioberti. È un soggetto naturalmente che Berti tratta diverse volte, lo tratta già negli anni 40, nel 47 per una prima pubblicazione su Toscana Nuova, lo tratta in occasione del centenario di Pinocchio, lo tratta attraverso le varie pubblicazioni con il Pioniere, quindi è un personaggio che rappresenta in qualche modo un po' lo stesso Vini Cioberti, perché in realtà Berti inserisce nel suo Pinocchio quelle che sono un po' le sue contestazioni, il suo grido verso una società, che era una società appunto in quegli anni in cui Berti lavora, che doveva in qualche modo restituire al popolo la voce. Quindi il Pinocchio di Vini Cioberti non è altro che in realtà è lo stesso Vini Cioberti che diventa voce per il popolo. Infatti questo Pinocchio è un Pinocchio che lui definisce proprio un personaggio, diciamo, popolare, povero tra i poveri, no? E quando racconta del burattino anche nelle litografie che poi saranno di commento, di accompagnamento a quelle dipinte. E queste 30 litografie di commento sembrano davvero, come diceva lei, un manifesto politico, devo dire. Sì, sì, in realtà esatto, è proprio un manifesto politico con una particolarità, una narrazione davvero di tipo cinematografico. Difatti chi potrà vedere la mostra, che resterà aperta fino al 17 febbraio, potrà osservare questo, non solo la bellezza di questo segno, del disegno di Pinocchio, ma anche la capacità nelle tavole di commento di dare una narrazione di tipo cinematografico. È quasi come leggere un vero e proprio copione, e quindi questa è anche la novità del Pinocchio di Vini Cioberti, di queste litografie che saranno esposte in mostra. Veniamo anche ai tipi di pittura di Vini Cioberti, perché sono davvero potenti questi disegni, queste litografie, come colori, come segni, come tratto, come drammaticità, ma anche come gioia, a seconda appunto dei sentimenti del Pinocchio e della storia che va man mano rappresentando. Quindi lui è un astrattista. Sì, lui nel 1950 è tra i fondatori dell'astrattismo classico italiano, e appunto, come dicevo all'inizio, la capacità di Vini Cioberti di utilizzare il segno, la parola, fondendola con la pittura, è una delle caratteristiche che in qualche modo poi trasporta anche nel fumetto, che per Berti non è percorso secondario, ma è uguale alla sua ricerca pittorica. E una cosa particolare nel Pinocchio di Vinicio Berti è la capacità che dà al burattino di essere sempre dinamico, anche nella litografia dove troviamo il Pinocchio che è ancora un ciocco di legno, dove Geppetto lo sta realizzando, dove si vede soltanto la lingua, ecco, quella lingua Berti con dei piccoli tratti è una lingua in movimento, ecco, non troviamo mai un Pinocchio statico, sempre un Pinocchio dinamico. Berti amava il collodi, cioè quando finì la storia, quando fu pubblicato per la prima volta come racconto a puntate su una rivista, fa finire la storia con il Pinocchio piccato che muore. Berti apprezza molto questo aspetto del racconto di Pinocchio e anche della personalità di Collodi, che ebbe appunto anche il coraggio di dare questo finale. Ma poi il finale appunto cambia e lui ci racconta anche come e perché cambia. Che cosa ci puoi dire su questo legame appunto tra Collodi, proprio artista, letterato, e Berti? Beh, è un legame sicuramente forte, perché Berti in qualche modo fedele a quello che è l'azione. Ad esempio nella tavola che raffigura Pinocchio che viene inghiottito dal pesce cane, nella poi trasposizione cinematografica oppure in altri fumetti di altri artisti, questo pesce cane viene poi sostituito dalla balena, ma in realtà nel racconto originario di Collodi non c'era la balena, quindi in qualche modo Berti resta fedele a quella che è la narrazione del Pinocchio di Collodi, naturalmente con quelle che sono le cosiddette licenze artistiche di un ottimo e straordinario fumettista, appunto come Vinicio Berti. Invece parliamo di Vinicio Berti e della sua fortuna e sfortuna in campo artistico, perché se nel territorio, diciamo, toscano, nell'ambiente fiorentino è un artista anche conosciuto, a livello nazionale lo è molto meno. Ha a che fare anche con la sua posizione politica? Sì, la sua posizione politica, che lo ha reso coerente nelle sue scelte, nel suo approccio appunto a quello che era il Partito Comunista, dove Berti era sicuramente uno dei personaggi tori, come in quel periodo ce n'erano tanti, che aveva aderito al Partito Comunista, lo ha in qualche modo conservato dal punto di vista delle proprie idee, della propria ricerca artistica, nel senso che Berti non ha mai inseguito quel successo facile dettato magari dalla commissione che il Partito Comunista poteva dare agli artisti, ma nello stesso tempo in qualche modo lo ha un po' penalizzato e non lo ha reso così riconoscibile al grande pubblico. L'ultima cosa che le chiedo è: Berti ha disegnato fumetti tantissimi per il Pioniere di Gianni Rodari e Nina Rinaldi, che era appunto un giornalino voluto dal Partito Comunista per i ragazzi. Tra l'altro alla mostra ricordiamo che saranno esposte anche 30 tavole di Pinocchio disegnate in questo caso da Raul Verdini con le filastrocche di Rodari, quindi nella stessa mostra ci sarà anche questa parte molto importante. Ricordiamo questo lavoro, questo legame, perché lui fu proprio una colonna portante del Pioniere, lavorò sempre per questo giornale. Sì, infatti la collaborazione sia con Rodari che con Verdini è una collaborazione e frequentazione significativa in quello che è il percorso di Vinicio Berti, che ha contribuito attraverso le sue illustrazioni, attraverso la pubblicazione di personaggi appunto quale Chiodino, Atomino, Smeraldina, giusto per citarne alcuni, alla fortuna del giornalino del Pioniere. Ed è un rapporto che in qualche modo ha segnato con quello che è stata la storia del Pioniere, quella che davvero possiamo definire la cultura fumettistica italiana. Ecco, sono tre autori che troveremo in mostra, Berti, Gianni Rodari, Raul Verdini, che hanno segnato e hanno lasciato un lascito fondamentale a quello che è appunto il mondo della fumettistica italiana. Thank you. chiama? Sono io. Dimmi, Grillo, e tu chi sei? Io sono il Grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni. Oggi però questa stanza è mia e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne andrò di qui finché non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati! Uai! A quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna, non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare. Io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, mi diverto più a correre dietro alle farfalle, a salire sugli alberi a prendere gli uccellini di nido. Povero Grillarello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grigliaccio del malaugurio! E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Fra tutti i mestieri del mondo non ce ne sia uno solo che veramente mi vada a genio. E che mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, tutti quelli che fanno questo mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grigliaccio del malaugurio, se mi monta alla bizza, guai a te! Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione! Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. E questo incontro tra Pinocchio e il Grillo parlante era tratto dal grande teatro di Carmelo Bene, proprio in Pinocchio, con la musica di Gaetano Gianni Luporini. Ma veniamo alla fata Turchina, uno dei personaggi più misteriosi e intriganti della favola. Elena Triolo ha dato vita a una graphic novel, Turchina per l'appunto, edito da Bau Publishing, in cui si ipotizza la storia di Giovanna Ragionieri, una ragazza che avrebbe ispirato Carlo Collodi proprio in questa figura, ai microfoni di Rachele Copparoni, la stessa Elena Triolo. È uscito già il 24 febbraio per Bao Publishing il fumetto Turchina di Elena Triolo. Io sono qui per parlarne proprio con l'autrice, proprio con Elena. Quindi buongiorno Elena e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e ciao a tutti. Già dal titolo dovremmo intuire qualcosa perlomeno sulla protagonista, ma ti va Elena di raccontarci proprio tu chi è Turchina, appunto la protagonista di questa tua graphic novel? Allora, la protagonista del mio libro è Giovanna, che è una ragazzina che è nata nella seconda metà dell'Ottocento, ha avuto diciamo la fortuna, il privilegio di incontrare Carlo Collodi mentre scriveva Le avventure di Pinocchio, e sembra che lui si sia ispirato a lei, a Giovanna, per la figura della fata Turchina. Tra i due è nata una bella amicizia che è stata insomma un po' coltivata in seguito, e quindi questa qui è la storia proprio di Giovanna e di questa grande amicizia che è nata tra i due. Ecco, tu ti muovi appunto tra questa storia realmente accaduta e un po' di anche fantasia, immagino, tua personale. Ti posso chiedere come hai mixato diciamo queste due parti e com'è stata anche la ricerca del materiale appunto per scrivere invece la storia? Allora, perfetto, parto dalla ricerca del materiale, che è stata inizialmente abbastanza complessa, perché questa qui è una storia che si svolge a Sesto Fiorentino, che è un paese in provincia di Firenze, e quindi è una storia che veniva tramandata oralmente, e c'era, sì, è stato scritto anche qualche libro su di lei, però non ci sono documenti d'archivio che provano che il Collodi si è ispirato effettivamente a lei, lui non lo ha mai detto, però circolava questa leggenda. E quindi la cosa interessante è che Giovanna poi ha avuto una vita lunghissima, e alla fine della sua vita, siamo negli anni 60 del Novecento, raccontò insomma di questa cosa incredibile alla stampa, ai giornali, ci sono un sacco di articoli sui giornali che parlano di lei, interviste, e quindi mi sono dovuta documentare attraverso questi articoli. Insomma, all'inizio è stato facilissimo neanche trovarli, sono dovuta andare alla Biblioteca Nazionale di Firenze, poi un discendente della Giovanna mi ha aiutato, è stato molto gentile, mi ha passato qualche altro articolo che io non avevo trovato, e poi anche insomma altri materiali. Sono riuscita a ricostruire la sua storia, anche se non per intero, completamente al 100%, comunque il mio non è un documentario, è comunque una graphic novel, ho inserito degli elementi un po' di fiction per insomma rendere insomma anche più fluida la narrazione, ma neanche tantissimi, insomma quello che potrete leggere è effettivamente la storia così come si presenta una volta ricostruita, ecco. Da dove ti arriva invece l'idea di ripescare appunto questa storia dal passato, come ti è arrivata l'illuminazione? Allora, l'illuminazione, diciamo, io questa storia un po' l'ho sempre conosciuta, me la raccontavano quando ero bambina, mentre mi leggevano Pinocchio, e mio nonno insomma mi diceva che la famiglia di mia nonna era imparentata alla lontana con quella di Giovanna, e quindi già questa cosa per me era... Inizialmente non ci credevo, poi quando ho scoperto che era vero c'è stato un grande motivo di orgoglio per me, e mi è sempre sembrata una storia bellissima. Ho deciso di raccontarla, tanto questo qui è il mio esordio da autrice unica, e quindi mi sembrava il modo migliore per cominciare, facendo qualcosa interamente trattato da me, scritto da me, oltre che disegnato. L'idea è nata, non mi ricordo, ero durante una fiera, stavo parlando con un autore, ma non mi ricordo con chi stavo parlando, e gli perché andavo in giro a raccontare questa storia a tutti, e mi dice: ma perché non ci fai un libro suo che potrebbe essere insomma veramente perfetto come soggetto per un libro? E quindi da lì ho iniziato a pensarci, e poi insomma appena ho avuto un attimino le idee un pochino più chiare, nemmeno più di tanto, l'ho subito proposto a Bao, che si sono dimostrati da subito interessati, e per questo insomma io sono infinitamente grata. Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo. A mio parere il burattino è belle e morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega.

avere una figura, un idolo, un faro, un ideale di donna differente, di donna forte, di donna libera e potente anche dal punto di vista anche muscolare, ma pur nei suoi limiti e nelle sue contraddizioni, sicuramente ha portato, è stata di supporto a tante donne che l'hanno sentita, come dire, l'eroina di cui avrebbero voluto potersi rispecchiare. E beh, parliamo di Wonder Woman, che è la figlia della regina delle Amazzoni, Ippolita, prima supereroina effettivamente del fumetto mondiale, è una donna intrepida, determinata, ma anche saggia e brillante, creata da William Marston, uno psicologo, che proprio lui propone, per l'assenza di personaggi femminili, a quella che era la NAP, la National Allied Publication, appunto, di pubblicare all'inizio degli anni 40, che è la stessa casa editrice di Superman e Batman, e poi sarebbe diventata la DC Comics, la famosa DC Comics, appunto, la creazione di questo personaggio, e quindi un numero poi sempre crescente di lettrici, evidentemente portate ad identificarsi con questo personaggio, questa donna forte, al punto che è diventato effettivamente uno dei primi simboli del femminismo. Poi l'autore Marston nel 44 si ammalerà e verrà sostituito da un altro autore, un giovanissimo fino al 1947, che è Joy Hummel, ed è stata effettivamente la prima donna a scrivere per l'eroina, un'autrice, Joy, appunto, che all'epoca però non ebbe tanto riconoscimento quanto per le difficoltà di superare varie crisi editoriali, e poi non di meno, qui si parla anche spesso di censura, la pesante crociata del puritanismo americano degli anni 50. Quindi il personaggio, anche preso da queste spinte sociali, evolve, acquisisce poi nuovi poteri, diventa protagonista di adattamenti cinematografici e televisivi, la più famosa è quella di Linda Carter nella serie dal 1975-79, e si lascia alle spalle anche la lotta contro i nazisti, ma continuerà a difendere senza tregua la vita, la libertà e la pace. E opererà con i suoi superpoteri e questa grande abilità di guerriera forte, di donna forte, che per molti è poi la interessante, perché ha questa, che ha anche capacità tattica, strategica, quindi anche politica cognitiva, intelligente. Quindi ecco, non c'è solo la forza, ma c'è anche dietro proprio una spinta, un motore, che è quello del politico e femminista. Quindi vogliamo riconoscere in questa figura sicuramente storicamente e anche con una sua attualità, per la testimonianza che offre, di aver aperto la strada a quello che poi possiamo chiamare appunto il fumetto femminista, o comunque senza intenti specifici, ma sicuramente che ha aperto la via per a tante altre protagoniste femminili, di cui parleremo prossimamente.